Quando lastri metallici e bianchi, tutto si infrange e cade. È come il fiore in frutto. Dormi sui miei dolori. Splendono gli astri metallici. Splendono gli astri.